Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchiesi in primo piano. La risposta europea alla strage contro Charlie Hebdo, si apre il dibattito sul superamento dei trattati di Schengen, ma non tutti sono d'accordo. Gli attentati di Parigi hanno provocato emozione e collera, ma hanno anche rilanciato il dibattito sulla collaborazione tra autorità nazionali in un settore, la sicurezza, che rimane tuttora competenza dei singoli governi. Entro fine gennaio i ministri degli esteri e i ministri degli interni discuteranno di come rafforzare il coordinamento in Europa, in particolare tra Europol e le autorità nazionali. Alcuni uomini politici nel frattempo propongono l'abolizione della libera circolazione delle persone e in particolare delle regole di Schengen che permettono il passaggio delle frontiere senza il controllo del passaporto. Il dibattito è aperto, ma sembra che l'idea non piaccia a una maggioranza dei governi, poiché Schengen è ritenuto un grande successo dell'integrazione europea. Attualmente il trattato consente la sospensione delle regole di Schengen per 30 giorni in circostanze eccezionali. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Secondo tre istituti di statistica europei, l'eurozona si orienta sempre più verso una ripresa moderata. Soltanto pochi giorni fa si parlava di deflazione, ma per l'Europa sembra tornato il tempo di notizie migliori. Il calo del petrolio, che ha tagliato il costo dei beni energetici, spinge la debole ripresa dell'eurozona. E quanto prevede l'outlook diffuso da Istat, ISEE e IFO, gli istituti statistici d'Italia, Francia e Germania. Un'evoluzione positiva, perché il PIL continuerà a crescere dello 0,3% nel primo e nel secondo trimestre del 2015, trainato principalmente dalla domanda interna, stimolata a sua volta dal calo del petrolio e dai bassi prezzi energetici. E questo dopo il più 0,2% di fine 2014, cioè del quarto trimestre dell'anno scorso. Lo stesso tasso registrato anche nel terzo trimestre. Il miglioramento nel mercato del lavoro sarà graduale e i consumi privati verranno sostenuti dal moderato incremento del reddito disponibile, conseguenza dei modesti aumenti salariali e della bassa inflazione, sempre legata alla caduta del prezzo del petrolio. Anche gli investimenti torneranno a crescere moderatamente nel 2015, stimolati dall'accelerazione della domanda interna ed estera e dal miglioramento delle condizioni di finanziamento. Rischi solo per l'ulteriore deprezzamento dell'euro e la caduta del prezzo del petrolio, nonché per le prossime elezioni in Grecia. Ma anche per l'OCSE la crescita dell'eurozona si sta stabilizzando, anche se continua a perdere slancio in Italia e a sorpresa anche in Germania. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, difende l'acquisto di titoli di Stato, dice che è lo strumento più efficace in questa situazione, afferma precisando che è la via standard di uno scenario di bassa inflazione. Il banchiere parla all'inizio di una nuova settimana che vede l'attenzione dei mercati sulle banche i cui requisiti patrimoniali sono sotto la lente della BCE. Sono stati in pochi a credere che una donna diplomatica di carriera internazionale assente dalla scena politica e mediatica della Croazia da 7 anni potesse avere una qualche possibilità contro il popolarissimo presidente uscente Ivo Josipovic. Ma alla fine Kolinda Grabar-Kitarovic, 46 anni, candidata del centrodestra nel ballottaggio delle presidenziali in Croazia, ha vinto al ballottaggio 50,45% dei voti, battendo di misura Josipovic, oltre che sull'appoggio di 8 partiti della coalizione di opposizione in centrodestra. Grabar-Kitarovic ha puntato anche sulla sua esperienza internazionale. Lo ricordiamo, ministro degli esteri dal 2004-2008, poi ambasciatore a Washington, segretario aggiunto della NATO per la diplomazia pubblica. È tutto, vi saluto qui Daniele Biacchiesi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.